Allora, magari di fare un breve epilogo. Questa frase è una frase di Gregory Bateson che riassume, a mio avviso in modo molto chiaro, i problemi metacomunicativi di un bambino, anche di un adolescente, di una persona anche adulta, appunto che ha problemi di metacomunicazione. Abbiamo visto che la metacomunicazione è qualcosa che va al di là della comunicazione verbale e che aggiunge un significato, e che questo significato aggiuntivo molto frequentemente è determinato dal tipo di espressività non verbale, no, allusiva, il modo in cui noi utilizziamo il linguaggio del corpo, usiamo gli occhi a volte in una certa maniera, l'espressione anche verbale sottintende alcune cose, il contesto all'interno del quale si parla è significativo. Quindi c'è cioè, tutta, quando qualsiasi persona parla, io per primo qui vi risento, non è solamente il significato letterale che dà una comunicazione, diciamo così, di primo livello, qui è anche una metacomunicazione che è importantissima, anzi, la metacomunicazione in gran parte è il vostro campo di ricerca, perché appunto i linguaggi che danno senso non sono semplicemente quelli letterali, ma sono la molteplicità dei linguaggi, che è il tono di voce, il modo in cui utilizzo le mani, il corpo, e via di seguito. Tutto questo aumenta e diversifica il significato di qualsiasi espressione verbale. E anche all'interno del linguaggio verbale, la metacomunicazione sviluppa una serie di significati che sono basati su un potentissimo mezzo di riflessione, di pensiero, che è la metafora. Abbiamo visto che il pensiero metaforico è il cardine del pensiero umano. Gli esseri umani, noi siamo cardini proprio perché usiamo metafore, costantemente usiamo metafore. Se non utilizzassimo le metafore, l'articolazione delle metafore, il nostro linguaggio sarebbe pochissimo, e avremo veramente delle enormi difficoltà a non solamente a comunicare, ma a sviluppare il pensiero astratto, anche a molti livelli della relazione del pensiero concreto. Ma il pensiero astratto è un pensiero profondamente metaforico. Facciamo un esempio, appunto, bella funzione forte come leone, appunto chi sta dentro al pensiero appunto metaforico capisce che è una metafora, no? Il fiore sta al posto lì. Ricordate, mi pare che ho detto questo, le metafore sono assolutamente arbitrarie. Sono arbitrarie, non c'è la regola della metafora, capite? Non c'è una relazione oggettiva, tanto meno universale, tra lei e il fiore. Per cui le metafore sono profondamente connesse a un tipo di cultura, di comunicazione, anche di frammenti di cultura. No, certe metafore funzionano in certi ambienti, in altri ambienti non funzionerebbero, verrebbero prese appunto alla lettera, o non comprese, ancora peggio. Per questo il pensiero metaforico è straordinario e nello stesso tempo, per prendere i temi che stanno attraversando un po' il corso, è specifico di diverse culture e anche di diversi segmenti all'interno della stessa cultura. Per questo può partecipare di un medesimo sistema metaforico significa anche partecipare a un medesimo sistema simbolico. Quindi il rapporto il rapporto tra pensiero metaforico e simboli è fondamentale, ma anche su questo più o meno se dovreste iniziare a riflettere, perché il potere del simbolo, non so se forse anche a livello letterale, la parola simbolo sta a significare che qualcosa di separato, grazie al simbolo, si riunifica. Il simbolo ha questa capacità di unificare quello che è separato, a volte che è rotto, che è fratturato. Questo è il pensiero simbolico, è potentissimo. E la relazione con la metafora è strettissima. l'esempio banale, Fede, tu sei bello come un fiore, a livello simbolico è come se il fiore diventa simbolo perché ristabilisce una unità che in qualche modo si è rotta, o che io personalmente non trovo più, tra te come persona e il fiore. Allora il simbolo riesce a produrre un movimento che unifica l'esperienza mia significativa con una singola persona, che è anche la stessa persona, con qualcosa di più generale. Per cui, per questo il simbolo è potentissimo, per questo il conflitto sui simboli e anche la trasformazione dei simboli, anche il gioco dei simboli, è parte costitutiva, per esempio, della nostra cultura. L'esempio più banale che si possa fare, che penso tutti quanti voi, tutto bene? C'è traffico. Che tutti voi conoscete, quello di Madonna. No? Madonna fu una delle prime a utilizzare, non solamente come la donna, che sappiamo bene in Italia quello che significa, ma a utilizzare il crocefisso. Il crocefisso è un potente simbolo. Il crocefisso unifica il credente cristiano con qualcosa di più generale, che è la religione cristiana. Questo è il simbolo, no? Unifica ciò che è separato. Io sto qui, entro in contatto con un simbolo, che può essere il Cristo, può essere la faccia del martello, può essere una rosa, può essere una corona, e questa capacità simbolica mi trascina in un mondo dove si ristabilisce questa unità. Io ristabilisco l'unità con la visione cristiana del mondo attraverso il simbolo. Allora, Madonna, quando utilizzò il crocifisso come orecchino, e la fece un tipo di atto profondamente di desimbolizzazione. Te lo presento questo per capire la cultura contemporanea. La desimbolizzazione è tanto importante quanto i simboli, sempre nella nostra cultura e in altre culture. Cioè, il Cristo diventato una volta orecchino diventa un segno, non è più un simbolo. È come se il significante e il significato si unificassero nuovamente, in un senso che non è più, diciamo, si trascendente, ma più un potere simbolico. E molta della comunicazione contemporanea è un tipo di comunicazione che produce una desimbolizzazione. Non so, la maglietta del Che Guevara, Che Guevara può essere un simbolo, probabilmente, no? È un simbolo perché ristabilisce un certo di visione, un processo rivoluzionario con il soggetto che ha riferimento a Che Guevara. Ma, diciamo sì, il ragazzo, la ragazza che usa la maglietta Che Guevara a volte può essere non più una dimensione simbolica, ma può essere appunto un codice, un segno che ha perso questa forza di unificazione con il processo rivoluzionario, che era quello di Evarista, e che probabilmente questo ragazzo non conosce la strategia di Verdiglia, del fumismo di Evarista, ecco. Però, diciamo sì, ha un'attrazione per un tipo di codice che con molta probabilità da simbolo diventa segno, da una volontà, cioè di unificare con qualcosa di più generale, diventa un significante che un significato, pura comunicazione di primo livello. Allora, vedete che metafora e simbolo sono strettamente connessi. Noi costantemente riflettiamo con concetti che sono in gran parte metaforici e che a volte producono simboli e a volte tendono a decostruire, desimbolizzare questo potere dei simboli. Il potere del simbolo è fortissimo, tenete presente, è forte, c'è un'enorme capacità di attrazione per le singole persone e anche per gruppi di persone, per classi di persone, a volte per nazioni intere. Quindi attenzione a questo potere del simbolo, cercate sempre di vederlo, almeno dal punto di vista antropologico, sempre di intendere precisamente il significato di un simbolo. Naturalmente anche per la metafora, solo che la metafora è più, posso dire, più oscillante, è più diversificante, è più contrattata. Per questo il lavoro sulle metafore, quindi sulla metacomunicazione, il simbolo non è metacomunicativo, in genere, le metafore sono metacomunicative. Allora, quando noi comunichiamo dobbiamo sempre avere un'attenzione molto forte a questi aspetti metaforici, che per complicarvi la vita, questo aspetto metaforico entra in conflitto con un'altra dimensione che a livello del linguaggio si chiama il pensiero metonimico. Avete presente, avete studiato il pensiero metonimico? Il pensiero metonimico stabilisce una relazione tra la parte e il tutto, cioè dire, se io ti dico se io ti do un messaggio in cui c'è una corona, o c'è un'aquila, o c'è una nuvola, o c'è un toro, o c'è una zebra, per parlare anche di calcio, per esempio del calcio, questo codice può essere sia metaforico che metonimico. La differenza è importantissima. Oggi c'è un traffico veramente dove tutto. Bene, dicevo che nel pensiero metonimico la parte diventa immediatamente il tutto, per cui se io mi relaziono a lei con una rosa, la rosa unifica l'intero corpo, mentre la metafora, lei sta al posto della rosa, capite? La metafora è una persona, sta al posto di. Come il pensiero metonimico, tu sei parte di questo frammento e diventi tutto questo frammento. Quindi non c'è più separazione, non c'è più differenza. La parte diventa il tutto. Questo è il potere metonimico, che come stiamo cercando anche di introdurre, il potere metonimico è profondamente connesso con problemi della metacomunicazione. Perché, vedete, la frase c'è scritta qui, è questo bambino che sta vittima, ricordate, sta vittima, per continuare a vivere con lei devo discriminare in modo errato i suoi messaggi interni, oltre che discriminare in modo errato i messaggi altrui. Per convivere con la persona che più ama, questo bambino, questo figlio, deve interpretare male i metamessaggi della madre. Ora, se un bambino, come dicevo la volta scorsa, costantemente e implicitamente, ecco, si adegua a non capire, a non discriminare correttamente i messaggi, i metamessaggi della madre, il suo modo di comunicare, anche di ragionare, anche di vivere, si schiaccia sul primo livello comunicazionale. Vi ricordate il sentito fatto? Beh, letto perché sei stanco, la madre vuol dire un'altra cosa, vuol dire non mai scocciato, con la fama, vuol dire seguito. Il bambino può capire questa antifra, appunto questa meta comunicazione, è stato detto. Ma se non lo capisce, perché non lo può capire, perché in questo modo se interpretasse in modo corretto il messaggio della madre, lui penserebbe che la perde e non può accettare di perdere la madre, allora in questo modo lui preferisce diventare stanco. Cioè la stanchezza penetra nel suo corpo. Questo è il problema di fondo di questo tipo di personalità. Diventa stanco, va a letto e diventa stanco. Abituandosi in questo modo, tutte le sequenze comunicazionali sono solo di primo livello. E se sono solo di primo livello è un disastro. Non è possibile vivere senza metafore. Non è possibile vivere senza metafore. Si vive in un mondo, diciamo, parallelo, pieno di difficoltà, capacità di comunicare con gli altri. E abbiamo visto, non so se non credo che sia necessario rivedere la sequenza famosa dell'allargamento, no? Questa che abbiamo visto. Se voglio mantenere il legame con mia madre non devo dimostrare che l'amo, ma se non dimostra che l'amo, aperto. Questo è il problema. Io non posso dimostrare che l'amo, ma se non le dimostro che l'amo, aperto. E allora che faccio? Mi trovo in un doppio vincolo da cui non so più come uscire, se non forse come Jensen ha fatto in quella sequenza famosa. E questo, come dicevo, non è solamente il problema, non è tanto il problema del figlio, anzi principalmente è il problema del figlio, ma è il problema della madre, in cui il padre è ormai assente. Queste ricerche di Benson sono ricerche degli anni 50, in cui la forma della famiglia sta decadendo da quella tradizionale, classica, in cui il padre aveva un ruolo fondamentale. Il padre costituiva il modello che Freud chiamava di superio, no? Il modello del superio, di un'autorità cui il figlio non poteva che in qualche modo adeguarsi, e con questa autorità paterna decade, c'è una decadenza che ovviamente molti studi sono stati fatti a partire già dagli anni 30 su questa decadenza della figura paterna e della resurrezione di una nuova figura paterna autoritaria, ovviamente, politicamente autoritaria oppure democraticamente pubblicitaria, no? O democraticamente pubblicitaria, perché anche la pubblicità funziona su questo modo. C'è già Benson tutto affrontava come i media all'epoca nascente, più o meno nascente, no? La radio, la televisione, il cinema, la radio organizzava, favoriva un tipo di comunicazione rispetto alla quale l'ascoltatore si adeguava a un ascoltatore appunto normale. E ricordate questa distinzione normalità, anormalità, una distinzione molto sottile, molto molto sottile. Lo spettatore normale, con le virgolette, si schiacciava su un primo livello, cioè quello comunicazionale. E questa riflessione, questa ricerca di Benson, guardate, se noi applichiamo, la applicheremo nella seconda parte, alla comunicazione massmediale, pubblicità, arte, eccetera, diventa ancora più potente. Per cui gran parte della comunicazione contemporanea, massmediale, riproduce doppi vincoli. E questi doppi vincoli non sono per soggetti, per così dire, patologici o anormali, sono per una normalità anormale, diciamo così, no? Un incrocio in cui la distinzione normalità-anormalità diventa molto, molto sottile, così sottile che sparisce quasi. Per cui, dicevo, a fronte alla scomparsa del ruolo paterno come matrice dell'autorità familiare e come modello per il figlio, decade la sequenza del film di Nora Sorey, è straordinaria, fa il fantocolaio, sta là davanti alla televisione che accade molto, non riesce a dire nulla, la madre lo assistisce, la moglie lo assistisce costantemente. Ma oltre a questo, dicevo, la madre, tante madri, e specialmente le madri che per motivi che sono di volta in volta da chiarire naturalmente, all'interno della famiglia si crea una specie di capo espiatorio. Ecco, nell'interno della famiglia ci sono delle patologie, delle tensioni che non si sanno come risolvere, e molto spesso questa soluzione dei drammi intrafamiliari trovano un canale, e questo canale è il bambino, è un bambino, è uno dei figli, o il figlio unico, dipende. Quindi è come se la crisi della famiglia, le tensioni, le insofferenze, senso di amarezza, di frustrazione dell'intera famiglia si riversasse, trovasse come parafulmine, come canale un figlio, e il figlio diventa non solo la vittima, ma questo capro espiatorio, no? Di queste tensioni familiari. Per cui la madre implicitamente, nelle ricerche di peso, è tutta una ricerca implicita, la madre indirizza questa sua patologia comunicazionale verso questa vittima, e qui vedete questa frase, come è molto significativa, tanto più lei si sente affezionata al figlio, tanto più si deve ritrarre. È come se un legame troppo stretto con il figlio, con la figlia, venisse sentito con paura. Allora, spaventandosi, deve, appunto, penso dice, deve trovare il modo per manifestare, diciamo, un affetto simulare, no? Simulato, non mettere in discussione l'amore per me o nel film, appunto, io stavo per morire, per mi ricordo, durante il parto stavo per morire. Ecco, quindi la madre è il soggetto fondamentale che sviluppa, assorbe, diciamo, dei meccanismi che producono questi dubbi. È il figlio, questo figlio, un figlio specifico, il figlio parafulmine di questa patologia familiare, viene acciaccato da questi doppi piccoli e non viene più, e ha difficoltà a liberarsi, quindi non riesce più a apprendere come comunicare. Solo che questo processo di inculturazione, vi ricordo, l'inculturazione è il processo attraverso cui una singola persona diventa prima adolescente, poi adulto, si assorbono i valori culturali locali nel processo di inculturazione, e il processo di inculturazione in gran parte è determinato dal rapporto con la madre, della famiglia in generale, che è parallelo al processo di socializzazione, che invece è quello esterno, no? All'interno, all'esterno. Beh, dicevo, questo processo di inculturazione diventa qualche cosa che si dilata in comportamenti sempre più diffusi, patologicamente normali, che si incrociano con la comunicazione contemporanea. Questo è il problema. Il problema della comunicazione contemporanea, di un'antropologia della comunicazione, è che la distinzione tra comunicazione e metacomunicazione, tra i livelli metaforici e quelli letterari, diventano il problema. E quindi, diciamo, le forme, diciamo, la didattica, la ricerca dell'antropologia cerca di penetrare dentro questo problema, di cogliere esattamente che significa questa distinzione, per trovare delle forme, naturalmente, non patologiche, quanto mai meno patologiche, della comunicazione, o detto in altri modi, questo tipo di antropologia tenta di sciogliere, o di spezzare, o di dissolvere, secondo i contesti, i doppi vincoli. Cioè, l'antropologia non è neutrale rispetto a questo problema della comunicazione, cerca di trovare la soluzione specifica a come andare al di là dei doppi vincoli. Questo era, diciamo, sì, il nodo centrale della lezione dell'altra volta. Questo l'abbiamo visto. Non so se ci sono delle domande, se non ci sono dei problemi, io passerei alla seconda, chiamiamola area concettuale di Gregory Fritz, che si chiama l'ecologia della mente. Ditemi voi, se non ci sono domande, io passerei all'ecologia della mente. Va bene? Allora io la introduco, poi uno di voi va a chiamare Alessandro, così ci porta l'altro computer e vedremo questo filmato straordinario di Facebook che transembrano a Bali. Vi dicevo che anche questo concetto, ecologia della mente, nasce dalla ricerca etnografica. Quindi ancora una volta ribadisco l'importanza per Gregory Bateson e lo direi in generale, che la ricerca etnografica sul campo, la ricerca che non è teorica, non solamente teorica, ma che si abbandona all'esperienza, perché dentro l'esperienza della ricerca sul campo che possono nascere nuovi concetti. Ecco, questo secondo concetto è diventato forse ancora più popolare, non so se voi l'avete già notato, ma ecologia della mente, verso l'ecologia della mente, è anche un libro molto famoso, appunto, di Gregory Bateson. Solo che non è un libro, penso ha scritto solo un libro, che è Nave, che vi ho anticipato la volta scorsa. Le ecologie della mente sono piccoli saggi, in genere sono conferenze trascritte, perché lui dirà che la scrittura è diventata insufficiente per dare il senso alla cosa, alla ricerca, al problema. Quindi non crede più alla scrittura, crede a qualcosa che lui chiamerà, in un'espressione veramente molto bella, chiamerà metallogo. Metallogo. Qual è la differenza col dialogo? Il metallogo, nel momento in cui si sviluppa un rapporto dialogico tra due o più persone, cerca di far capire e di esplicitare il contesto all'interno del quale si posiziona il dialogo. Quindi ancora una volta il metallogo è un dialogo sul dialogo. È un dialogo che affronta anche le categorie che si utilizzano nel dialogo, perché le categorie, i concetti, le espressioni che noi usiamo nel dialogo sono storiche, cambiano, sono basate su una contrattazione di significati. Ricordate questa espressione? Una contrattazione di significati. Io e te, dialogando, contrattiamo i significati, ma contrattiamo anche spesso implicitamente le regole del dialogo. Le regole del dialogo, che potremmo chiamarlo anche paradigma, elaborato successivamente, è un metallogo. Il metallogo, io non chiarisco solamente un significato, chiarisco anche i concetti, le visioni del mondo, i paradigmi che producono quel dialogo. Per cui è come se le regole del gioco, del parlare, fossero espresse e si riflettesse sulle regole. Ecco, questa è l'espressione giusta, non so se è chiaro. Io parlo con te, ma nello stesso tempo io voglio discutere le regole di cui parlo con te, perché io ho capito una cosa, che queste regole non sono regole oggettive, universali, quello che volete, sono regole contrattate. Sono posizionate come me, come un soggetto, capite? Allora il metallogo non si accontenta a risolvere un problema, il metallogo vuole risolvere anche le regole che soggiacciono ai problemi, capite? Il metallogo vuole risolvere anche le regole che soggiacciono e che determinano i problemi, perché col dialogo io entro a un certo livello dei concetti. Col metallogo io cerco di andare al di là, di posizionarmi su un ulteriore livello, che è il livello dei concetti, del perché un concetto significa quella cosa. Per esempio, per cui il metallogo dialoga fra due persone e allo stesso tempo cerca di chiarire queste regole del parlare, o le regole del gioco. E i metalloghi di Gregori sono molto belli, tra l'altro, perché sono fatti con una figlia. Questa figlia, che già a 10 anni è veramente una grandissima intelligenza, Mary Catherine, e i metalloghi tra Gregori e Mary Catherine sono veramente sul senso del gioco, per esempio, non famosissimo, sul senso del gioco, perché tutte le cose vanno in disordine. Cioè, forse il più significativo è il concetto di disordine, non che affrontano dialogando e poi arrivando appunto a un metallogo sui sensi, magari non entriamo su questo, se no io mi disperdo sulle cose. Però ecco, le cose generalmente parte con la voglia del metallogo e poi dice una cosa che è molto diversa dai grossolani ambientalisti. Io, scusate, io sono veramente a morto con gli ambientalisti, perché gli ambientalisti si collocano tra la questione sì, giustizia, infatti, l'ecologia della mente è un livello molto più complesso. Il professor Benson è un autore fondamentale che non è più di una disciplina, non è degli antropologi, lui poi diventa anche teologo, la cibernetica, che ha attraverso molte discipline. L'ecologia della mente è qualcosa di profondamente legato a una ricerca antropologica, a una riflessione, chiamiamola filosofica, ma è certamente comunicazionale. Per cui antropologia, filosofia e comunicazione, questi tre livelli, sono interconnessi dall'ecologia della mente. presento come avviene a Bari, perché da questa dimensione empirica secondo me sarà molto più semplice arrivare al concetto generale. Allora, fate attenzione a quest'altra sequenza. Ricordate che nel libro Bari as Character penso a sequenze di fotografie per unità significative dal punto di vista culturale. Abbiamo visto l'allattamento. Questa sequenza è legata alla trans, di cui poi vedremo appunto il celebre filmato Trans and Drama a Bari. Allora, la sequenza inizia in questo modo. C'è un uomo che sorregge questo bastone, vedete? Questo uomo guarda da un'altra parte, dice Benson, perché lui non c'è. Lui sta in parte là, ma lui profondamente non sta lì. È come se non fosse lui, dice Benson, a sorreggere questo bastone. Questo bastone, vedete, ha una corda su cui ci sono due marionette. Queste marionette hanno in basso un campanellino. Il campanellino ha la funzione sia di dare una stabilità alla marionetta che tende verso il basso, perché è un campanellino pesante, quindi fa, come si dice, fa da stabilizzatore. Ecco, qui c'è un primo piano, vedete, la marionetta. E poi tra l'altro si indicato, adesso vedremo. Nella terza fotografia, una bambina molto giovane, avrà 8, 9, 10 anni, si avvicina alle marionette ed è sostenuta da una donna più grande, vedete, la sorregge. Quindi fate già attenzione al fatto a questo sorreggere. La bambina si avvicina, tocca la marionetta, l'uomo senza far vedere che lui comincia a muovere il bastone, muovendosi il bastone si muove ovviamente la corda, la marionetta comincia a oscillare e suona, il campanellino suona, emette un suono, vi dicevo anche l'altra volta, la musica balinese è importantissima, è molto basata su un tipo di timbricità un po' ipnotica e ripetitiva. Il suono del campanellino e toccare la marionetta fa cadere in trance la bambina, che viene sorretta ancora di più dalla donna che sta dietro. E poi verrà una nuova bambina e continua. Vedete come fa sempre vita, devono esserci. Allora, qual è il significato di questo rituale? Apparentemente semplice, molto complesso, perché il tema di questo rituale è niente di meno che la trans, cioè dire lo stato alterato, l'alterazione del corpo e della mente, del corpo mentale. La trans ha funzione, si sviluppa all'interno di una persona e in una delle culture, o parte di cultura. E quindi la prima determinazione che vi do è che questa trance funziona a Bali per un balinese, non per dire l'inglese, neanche per voi che andate là, non andate in trance, bisogna far parte di un universo culturale, di quell'universo culturale, perché bisogna far parte di quei valori, di quel modello di valori. Il secondo punto è la marionetta. La marionetta ha un enorme significato appunto simbolico. La marionetta è un simbolo potentissimo della cultura balinese. La marionetta è collegata, questa è una cosa molto interessante, perché la marionetta, come la maschera, non è legata semplicemente al viso. Le maschere a Bali, tenete presente, questa forse è una delle cose per me più belle con la ricerca, le maschere a Bali si possono mettere in qualsiasi parte del corpo. Quindi una maschera non è solo nel viso, possono mettere la spalla, la pancia, il ginocchio. Perché a Bali appunto l'individuo non è soltanto un individuo nel significato che noi diamo a questa parola, è come se nel suo corpo ci fosse una molteplicità di identità cui corrispondono molteplicità di maschere anche. E vi metto un passo un altro. La visione del mondo balinese è fatta di questi tanti pezzi, come tante maschere, diciamo così, no? Vedete come tanti pezzi di maschera che in qualsiasi momento possono andare a pezzi. Questo andare a pezzi delle maschere si chiama Beloek, è la parola non traducibile, non si può tradurre Beloek. Più o meno appunto è l'intero universo balinese in ogni momento, specialmente in un momento rituale, qual è questo qui, diciamo, della danza delle maschere, della danza delle marionette, in un momento può sfasciarsi. È come se il simbolo, prendete il concetto di simbolo, se ci siete, è come se l'universo simbolico di Bali andasse a pezzi improvvisamente, e andando a pezzi a Bali c'è un modo per affrontare e per dare soluzione a questo spezzarsi dell'universo compatto simbolico, è la trance. La trance è un'alterazione del corpo che sviluppa una sorta di coabitazione di una molteplicità identitarie in cui normalmente si dice si perde la coscienza. Sì, infatti è vero, la coscienza si perde e nello stesso tempo si affermano nove tipi, diciamo così, coscienziali, nove elementi coscienziali, e questi nove elementi coscienziali riescono a penetrare viaggiando psichicamente, a viaggio psichico, dove le fratture si sono compiute e si riaggiustano, si incollano, per così dire, queste fratture, e si ristabilisce un universo compatto simbolico. E si ristabilisce un universo compatto simbolico. La trance, quindi, la funzione della trance a Bali ha questa determinazione che si ripete costantemente, di affrontare una tendenza al frantumarsi del mondo attraverso i due simboli. È l'unico modo per ristabilire questa unità cosmica e simbolica, cosmica e simbolica nel mondo balinese, è la trance. Perché la trance ristabilisce una sorta di complessità olistica della vita. La trance non è solamente coscienza, per dirla anche in un altro modo, e lo vedrete nel film, Margaret Mead dice che la trance è come se fosse un incrocio di agonia e di orgasmo. Di agonia, è come se il momento dell'agonia, in cui c'è il momento, diciamo così, fatale, in cui non si è più vivi ma non si è neanche morti. L'agonia, io sto per morire ma sono ancora vivo. E nell'orgasmo, certamente sono vivo ma sono anche un po' morto. No, l'orgasmo è quel momento in cui la dimensione coscienziale si perde. E quindi si ristabilisce in questa tensione strana che dice Marta, questa agonia, questo qualcosa tra l'agonia e l'orgasmo, si ristabilisce qualche cosa che non sta più né là né qua. Non è il mondo dei morti, non è il mondo dei vivi. Sta in questa zona liminale. Sta in una zona, una terra di nessuno. Non è né morta né viva. Non è né organica né inorganica. Non è nel corpo di marionetta, ecco, esiste anche questa, ma è nel corpo di maledetta. È come se la bambina diventasse maledetta, ma in quel momento, nel momento in cui lei trans, diventa più che maledetta, o meno che maledetta, e lo fa. Allora il vero è che affrontare questa frattura significa tentare ogni volta di ristabilire il modo di questo incontro tra gloria e morte e orgasmo, questa unità. Allora che cos'è l'ecologia della mente? Dice Benson, Freud aveva moltiplicato l'io all'interno. Freud aveva moltiplicato l'io all'interno. Poi aveva capito che l'io non è singolare, ma è almeno triadico, cioè l'io, l'essere superiore, l'io che cerca sempre di risolvere la tensione tra questo essere, cerca sempre la pulsione, e il superiore che cerca sempre di controllare la pulsione, questa autorità che cerca di dare, di addomesticare gli istinti. E questo dice, per me l'io si dilata all'esterno. Non è all'interno, si vuole anche all'interno, non è che lui è contrario alla funzione proletica, ma oltre a differenza di questa azione di Freud, l'io si moltiplica all'esterno. E come? Qui c'è l'esempio, allora qui vedete, c'è un uomo con un braccio, con un bastone, con una corda, una marionetta e poi una bambina. E poi la fotografia, e poi io che ve la sto mostrando. Ecco, l'ecologia della mente è questo intrecciare questi livelli differenziati che stanno comunicando all'esterno del soggetto e che, anche se non sono, diciamo così, noi normalmente siamo abituati a pensare la mente come qualcosa che ha a che fare con gli esseri umani. Perché da voi invece l'ecologia della mente, la mente sta nel braccio, nel bastone, nella corda, nella marionetta, nel campanellino e nel bambino. E anche nella fotografia di un collega. Questa è una mente. È una mente ecologica, cioè è qualche cosa in cui si scambiano informazioni. Questa è la mente per questo. Il sistema di scambio di informazioni esterno al soggetto sviluppa una mente. E questa mente è una mente ecologica che coinvolge non solamente gli esseri umani, ma un microfono, una cinepresa, un bastone, un'anemone di mare, che è un altro celebre passaggio del suo libro. Per cui l'ecologia è qualcosa che non è solamente antropocentrico, ecco, questa è la riflessione significativa, se volete anche inquietante, ma appassionante. In Benson si mette in discussione la visione antropocentrica, per cui è mente solamente quella degli esseri umani, sulla parola, mentre è questo transito della comunicazione tra esseri, tra loro diversi, che possono essere bastone, corda, marionetta, bambina e tutti noi. Questa è mente. E se si infrange, dice Benson, un frammento di questa ecologia, per dire, se si taglia la corda, non nel senso che scappiamo, la corda di... se si taglia la corda e la mente non funziona più. Questa è la riflessione anche rispetto ai rituali, no? Se si taglia una singola parte una cultura, vedremo poi quando affronteremo la dimensione d'oro, se si ha una parte rischia che la dimensione mentale entra in crisi, in questa relazione profonda anche con le cose, anche con gli alberi, anche con gli animali. In questo senso il pensiero di Benson, dell'ecologia della mente, è anche definito neoanimista e neotocemico. Neoanimista e neotocentrico, concetti che poi vedremo meglio, che animizzano il termine, non è infelice, vivificano, ecco, forse è meglio. Il neotocentrismo solidifica gli esseri a prescindere che siano umani, animali, vegetali o minerali. Gli esseri umani, animali, vegetali e minerali sono esseri che intrecciati nella comunicazione producono ecologia della mente. Sono mente. Questo è il concetto di mente, mind, di Bateson, di grande spessore, secondo me, anche filosofico, che come vi ho detto. Allora, c'è una domanda. Quindi la mente può assumere dei caratteri divini in quanto presente in ogni cosa? Bella domanda. Bateson dice: se questo è divino, è divino. Bateson, in qualche modo, il concetto divino è un altro concetto profondamente di matrice, diciamo, eurocentrica. Allora, dipende che si intende per divino. Bateson più volte dice: Bateson preferisce il concetto di sacro. E vedremo la distinzione netta che c'è tra sacro, divino, religioso in particolare. Se intendete con sacro, se vedete che tra sacro e religioso c'è una differenza molto profonda, la religione è sempre istituzionale, c'è un'istituzione. L'istituzione religiosa è composta da dei sacerdoti che riproducono un libro, un testo sacro, e che hanno un rituale e che hanno un luogo, la chiesa per esempio. Allora, questa è una religione. La religione è una chiesa, un libro sacro, un corpo di sacerdoti separati dagli altri cittadini e dei rituali. Questa è la religione. Il sacro non è rinchiudibile dentro queste istituzioni. Il sacro non accetta sacerdoti, non accetta un voto o un testo, è ingovernabile. Allora, se per te divino è affine a questo concetto di sacro, è come penso la intende, è una dimensione sacrata, per cui la natura è sacra, in questo senso specifico, ma non religiosa. C'è in ogni cosa nella misura in cui noi stabiliamo un rapporto comunicazionale con la cosa. L'ecologia della mente sta con le cose, anche il più semplice sentiero o un pezzo di roccia, un pezzo di un muro abbandonato, oppure un edificio totalmente nuovo, nella misura in cui noi ci relazioniamo a queste cose come se fossero soggetti, perché sono soggetti. Allora, se la mia relazione con la cosa è da soggetto a soggetto, è divino o sacro. Se la mia relazione comunicazionale è di questo tipo, sì. Se io infrango questa relazione e la uso semplicemente, allora non diventa più un livello comunicazionale, diventa un livello strumentale. E in questo caso, dice Gregory, l'ecologia può andare, si può fratturare. E come si mette in moto il processo di ecologia della mente? Non è così semplice per noi, diciamo così, così come in qualche modo è per altri culture. E infine, questo però ve l'ho già detto, questo aspetto non lo so, in modo che adesso vedrete magari se qualcuno va a chiamare tutta una cosa, non so, però io vi mostrerei il video che dura 15 minuti e poi farei la pausa se siete d'accordo, perché così il video siamo anche interessati, però se no ci vuole la versione volontaria data da Alessandro per prendere il computer. Chi ci va? Alessandro viene alla... Sei grande, lo sa perché già te l'ho detto. Quindi quest'altro aspetto è una cosa che ho già detto, ma ripeto, e secondo me è giusto che predica adesso, perché questa frase di Benson è una frase che lui scrive alla postfazione, alla postfazione ad Amen, mi va nel 58, che più o meno quando scrive questo libro. E mentre insieme i è quello che intendo le spiegazioni. Quindi vedete, adesso scusate, non so se io ho visto che sto un po' torturando, però il concetto di metabolo, vedete, il concetto di metabolo è esattamente questo concetto di spiegazione. Mettere insieme i dati, il modo in cui metto insieme i dati, se io rifletto sul modo in cui metto insieme i dati, questa è la spiegazione. Cioè la spiegazione non è del metodo, non sa che so, il fatto che io scrivo questo, questo, quest'altro, l'esplicito, il funzionalismo, lo strutturalismo, l'evoluzionismo, cioè, tutte le varie metodologie che in genere si affermano. Non è, penso non segue questo tipo di impostazione in cui c'è il metodo. Il metodo è mettere insieme i dati, l'assemblaggio dei dati. E vi dicevo che l'altro grande pensatore che affronteremo. Ah, c'è da. L'altro grande pensatore è Walter Benjamin, poi io veramente ho scoperto altre cose, l'ho scoperto anche recentemente, perché un grande scrittore tedesco si chiama Thomas Mann, è uscito recentemente, diciamo, a romana di una capitola semplice Repubblica di Lettere, e c'è un bellissimo scambio epistolare tra Adorno e Thomas Mann. Adesso è andato per rilassarmi un pochino, vi racconto questa. Non so se sapete questa cosa. Thomas Mann era esule, come Adorno, come tanti, alcuni intellettuali. Perché si è fermo il nazismo. E Thomas Mann sta in California, dove c'era Schoenberg, che è il direttore della biblioteca morte, sono tutta una serie di critici, c'era Alberto Brecht, eccetera. Alberto Brecht, questo sarebbe stato in Danimarca. E lì devo fare un libro che si chiamerà Dr. Faustus. Questo libro straordinario. Lui cerca di stabilire una correlazione tra la crisi del sistema tonale, sistema a 7-9, e la crisi del sistema politico tedesco, il nazismo. Cerca di stabilire questa correlazione. E lo fa affrontando una serie di musicisti, però lui non ce la fa a capire che cos'è la teodicatomia, Thomas Mann. Però andiamo a Adorno, che all'epoca e anche dopo sarà il massimo interprete della musica contemporanea. E allora gli spiega come funziona il sistema telegrafico, poi allora gli dirà anche altre cose, l'avessi anche un po' accennato sull'opera 111 di Beethoven, l'ultima opera che comincia la sintesi, insomma. Tra l'altro, che è molto più giovane che Thomas Mann, vi è uno scambio di queste lettere molto formale, in cui a un certo punto anche lo stesso Thomas Mann, noi gli spieghiamo grosso modo, verso la fine, adesso non ricordo esattamente, in fine anni 30, all'inizio, forse già durante la seconda guerra mondiale, e lì Thomas Mann dice che il suo metodo della scrittura è il montaggio, anche lui c'è il montaggio. E questo a me fa particolarmente piacere, poi tra l'altro anche i surrealisti, che sono totalmente differenti da Thomas Mann, in grosso modo, avranno detto, perché non ancora la stessa cosa, quindi questo aspetto che è il modo in cui si mettono insieme i dati, che riflette sulla spiegazione, secondo me è una prospettiva di enorme valore combinazionale. Io la suggerisco e vi sollecito a sviluppare se volete, come più vi può interessare. Detto questo, se non avete domande, io cerco di mettere insieme il video, lo mettiamo al video e poi facciamo un video, va bene? Thank you. sempre che ci siamo uno studente, una studente, ma no, vai aiuto io che so, non c'è nessuno, non voglio dire, un volontario. Thank you. people will fled their place to the village to wander the road. This is the first scene where the pregnant woman, played by a man, gives birth to a child while witches lurk about to steal the newborn child. A dog, which is stolen by the witch child, tossed in the air, killed, and returned dead to its mourning relatives. The village has mourned for the dead child, putting on its theatrical display of grief. The witches, witch child and witch, lurk about and tease the mortals, to whom they are not yet quite visible. As they become visible, the mortals chase the witches. The witch child is caught and held by the head as the knee injection. In just a minute now, you will see the witch in her supernatural form at the gate of the temple, attacked by the emissary of the king, who fails to conquer her. She wears over her face a white cloth, the cloth in which a mother carries her baby. And now, coming down the temple steps, the witch stands alone, a figure both frightening and representative of fear itself. Thank you. There come the women, also in a ballet formation. She continues to dance, we tell her. sia minimalista che invece è molto più. Beh, sono tre che ci sono due minuti. Thank you. cioè l'erode anche nelle culture altre è un soggetto, una persona che ha come, diciamo, compito quello di realizzare una serie di azioni che sono considerate anormali o contro natura, se vogliamo usare questo termine. Per cui dovete cogliere il fatto profondamente simbolico che la persona, per uscire totalmente dalla trance, quindi da una situazione in cui lui è anche Rangda, il conflitto è tra Rangda e Maronga, in gran parte. Rangda è appunto questo essere che anche magari chiama strega, perché non è preciso, ma gli chiamano Rangda come merita di essere chiamato. Maronga è quella specie di animale, di serpente, di drago, diciamo, una specie di drago, no, che esprime un conflitto tra Rangda e Maronga. Allora, la persona che rappresenta Rangda deve attraversare una serie di rituali di purificazione e estremi, diciamo così, fuori dalla norma per riaffermare la sua, chiamiamola, normalità, la sua singolarità. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che ci fanno riflettere profondamente e che adoro, non è solo progressivamente, adoro all'italiana, nel teatro dove ci sono gli spettatori da un lato e poi c'è l'attore dall'altro con un sipario, una divisione molto netta. Questa divisione tra chi recita e chi è spettatore è una forma di teatro. Perché, allora, Artaud è stato uno dei primi che pensando, vedendo e immaginando quanto accadeva a Bari, pensa, ma qui il teatro è basato sul corpo. Di là Artaud, pensate che cosa singolare, esattamente la stessa conclusione di Gregorio Pezzo e Margaret Mead. No, sia Pezzo che Mead diranno che il carattere balinese è il corpo balinese. Allora Artaud dirà, senza conoscere questa ricerca, che la conosce, dirà che il teatro è basato sul corpo, quindi non sulla psicologia, non sul linguaggio scritto orale, ma è il linguaggio del corpo che rappresenta qualche cosa che è stato infranto, diciamo. Qualcosa è stato infranto, quindi è profondamente simbolico il teatro. È come se nel teatro balinese si ristabilisse un cosmo che si è rotto o che si sta per rompere. Per questo quello che noi chiamiamo teatro, che è difficile, chiamiamo un rituale performatico a Bari, è costantemente, si ripete e si ripete. Le ultime parole di Bari sono queste, sono state, il dramma finisce, ma comincia subito dopo. Perché questo rituale è l'unica maniera che loro hanno di stabilire questa unità cosmica. Questo è il senso profondo di una cosa che noi appunto chiamiamo teatro, che probabilmente anche forse nella Grecia antica, non è nel primo teatro, non so se qualcuno di voi ha letto il testo fondamentale su questa riflessione che rimane, secondo me fondamentale, che è un testo di Nietzsche che si chiama L'origine della tragedia. Testo fondamentale. Quindi chiunque di voi non lo voglia leggere, non lo dica, perché veramente è un testo che apre degli orizzonti su tanti aspetti della riflessione, non solo su un mito, sulla tragedia, sull'eroe. Anche la domanda che hai fatto tu prima, ecco, dice la tragedia quella di Eschilo, diciamo, è quella che ristabilisce l'unità tra l'essere divino, umano e animale. Questo è il sacro della tragedia. La tragedia originale, non quella di Olimpia, che per lui è già una oppressione. Allora, quindi, è il corpo che diventa il linguaggio del teatro per Artaud. E questa crudeltà, noi le chiamiamo crudeltà, la crudeltà è il modo, questo aspetto del linguaggio, quindi del corpo, che cerca di dare il senso di questa frattura che ha avuto. della frattura avvenuta, e questo piatto della crudeltà, che non è farsi male, a volte non è fare delle cose così che ne so, più estreme, no? Però la volontà è cercare di ristabilire la potenza simbolica che è stata entrata. E questo è crudele, perché è crudele la separazione e non può non essere crudele le forme attraverso cui si tenta di ristabilire questa unità cosmica originaria. Da qui anche l'importanza fondamentale della maschera. No, parleremo poi a lungo sull'aspetto simbolico della maschera, che è per me uno degli elementi più significativi, diciamo, sì, sicuramente sono sempre, a parte diciamo, il mio interesse, ma c'è una riflessione profondamente antropologica sul significato della maschera, che è oltre la marionetta. Chiamiamo la marionetta, che la marionetta è questo essere che è disarticolato, si può disarticolare, e la sua disarticolazione ha visto anche gli uomini si muovono un po' come delle marionette, non rappresentano dei movimenti da marionette, e la marionetta, appunto, che è parte della massa, come dicevo prima, proprio perché stabilisce questa, ristabilisce in un momento questa unità profonda tra questa molteplicità di maschere, i balinesi sono grandi maestri di maschere, ci sono di tutti i tipi, e ogni maschera appunto si può incolmare nella parte del corpo per rappresentare questa alterità. L'altro aspetto appunto che diceva nel commento padre, se avete visto con quanta violenza si colpiscono nel petto, no? E questo naturalmente è stato discusso a lungo, ma perché non si fanno male? Quel pugnale si chiama Crisper, che vuole è un pugnale profondamente tagliente, forte, quel pugnale in forma di serpente, diciamo. Crisper, perché non si feriscono? Perché? I muscoli sono così irrigiditi che la violenza del colpo del pugnale non riesce a attraversare la carne. Questa è la spiegazione di Jacques. E dice Margaret, se qualcuno si ferisce, non so se avete sentito, la trance non è vera. Ferimento è il suo significatore, che la trance è basura, non è. E naturalmente ci sono tutta una serie di letture, ipotesi su questo fatto, ah, visto c'è addirittura un crisse che è piegato quasi a 90 gradi, la violenza del colpo è fortissima. Quindi l'alterazione non so, diciamo, del corpo, questo è un concetto di alterazione, non è un'alterazione della mente, il termine di alterazione è qualcosa che modifica radicalmente proprio il tessuto corporeo, come se fosse altro, alterato. Nello stesso tempo, anche questo è molto caratteristico della trance, chi va in trance sa. I tempi sono un po' complicati, ma sicuramente c'è qualcuno che non va in trance che gli sta vicino. Sempre. La trance è sempre una cosa profondamente anche dolorosa. Questo aspetto dell'agonia, che dicevo, questo mix di agonia e appartiene a molte forme di trance, che normalmente non potete immaginare, sono diverse dalle varie culture, però assicuro che in genere, tranne in quelle dell'Africa, cioè, eccetera, che adesso non interessano, ma chi va in trance in genere una persona che gli sta vicino, perché la trance ha dei rischi profondi da anticipare, perché la lingua si può avvoltolare e può morire soffocata. Quindi c'è sempre, e anche lì sono in trance, vengono delle persone, lo prendono, lo portano via, e sono. Qui dipende da cultura a cultura, ci sono alcune culture, ad esempio, perché alcune non vanno mai in trance, per motivi che sono un po' complicati a spiegare perché si dice sì, perché io non accetto di fare diciamo, una serie di rituali, ma insomma è sempre una cosa difficile da chiarire. E quindi queste persone in qualche modo accompagnano, fanno altri tipi di performance. Poi la musica, dicevo, se avete visto anche i film, c'è un uomo e una donna, insomma, e il loro testo sulla musica ipnotica, spero che la abbia sentita bene, cioè c'era una moglie che era, a dire la verità, non accetto questi chiacchieri di una lezione, ma non un vino, con tutta sincerità, è una mancanza non di educazione verso Margaret Miller, che era inglese, ma contro me stessi, perché trovo assurdo, è un film del genere che dovrebbe sviluppare la massima attenzione alla cosa, a tutti i sensi. Il fatto che ha sognato al pubblico, perché ha vissuto atteggiamenti televisivi, si sente a chiacchierà, ecco, lo trovo veramente molto molto criticabile. Una volta si perdona, come si dice, ma vi invito a chi si è messo a chiacchierà a capire perché ha assunto atteggiamenti appunto televisivi rispetto alla potenza formativa, secondo me, di questo documentario. Poi dopo si può parlare del film, ovviamente. Così come spero, quando vi mostrerò altri frammenti di video, vi lo chiedo proprio che veramente dovreste essere voi a fermare un'attenzione sensoriale all'immagine che vedete anziché quella chiacchierale. Appunto, dicevo la musica, quindi la musica perché? Perché la musica di Bari ha una tale potenza ipnotica nella sua fluttuante interazione, la fluttuante interazione è parte costitutiva della sensibilità mutata, probabilmente non identica a quella barinese, ma che si è affermata profondamente in tanti aspetti della musica nostra, diciamo, occidentale contemporanea. Allora, chi di voi è appassionato alla musica, si ascolti bene questa musica invece di chiacchierare e tenti di affermare come questa è una degli esempi musicali che più hanno potuto trasformare la nostra sensibilità musicale. Quindi non solo la dimensione teatrale di Artaud, che vi dicevo, ma anche quella che mi piacerebbe farvi sentire, lo scrivo. Questi due autori, questi bilanci di classe che hanno sviluppato un tipo di musicalità influenzati moltissimo dalla musica balinese e anche da altre musiche che i giorni però ascoltare, musiche africane, insomma, ragazzi, con l'università di una certa musica africana. Non so se vedete tutto. Avete visto la bellezza delle sequenze in slow motion in Valentino di Valentino, sia dei movimenti dei uomini, delle donne, anche della grinda che non si difende all'inizio, insomma, ci sono tutta una serie di eventi che io spero vi servano da riflettere, insomma, la comunicazione performatica, rituale, una ritualità performatica, possano sviluppare una sensibilità da applicare con la vostra ricerca alla comunicazione. Cioè, bellissima domanda questa. Bari è un'isola che è stata influenzata in parte dal Pakistan, l'attuale Pakistan, in parte dall'India. Attualmente Bari fa parte del Pakistan, ma ha una sua, diciamo, sia autonomia sempre molto conflittuale, che deriva da tante cose di cui adesso non stiamo parlando. Ma l'influenza su questo aspetto specifico, che ha detto Alex, è su un tipo di linguaggio, diciamo, teatrale, virgolette, di molto teatro danza indiano, che si chiama mudra, M-U-D-R-A. Mudra, i balinesi, gli indiani, nelle forme teatrali, alcune forme teatrali classiche, usano contemporaneamente il linguaggio verbale, il linguaggio cantato, il linguaggio corporale e il linguaggio che è ancora più importante di tutti, che è il mudra, cioè le mani, le dita, sono come degli ideogrammi che compongono storie, che raccontano storie, per cui quei movimenti stanno dicendo delle cose che noi veramente non capiamo se non conosciamo questo linguaggio, ma che lì hanno un profondo significato, hanno un significato tanto forte quanto per voi il linguaggio scritto. E a me, per esempio, è capitata una delle esperienze più belle nel campo di questo tipo di teatro, tipo di teatro dell'India, in cui questo danzatore, diciamo, se non capisco cosa è preciso, dialogava con gli occhi, con le parole e con le dita, per cui con gli occhi diceva delle cose, no? Allargando, chiudendo, ogni modo in cui l'occhio si apriva alle possibilità. E le mani un altro, per cui il dialogo era tra tua soggettività all'interno dello stesso attore, chiamavo attore, lui dialogava tra le mani che parlavano in un modo e gli occhi che non erano in altro. Il catacale, non so se a qualcuno di voi è capitato di assistere a Caracalli, a qualcuno? Sono i tre della banda che conosciamo. Beh, io mi auguro di partecipare una volta a questa esperienza, a Caracalli, che in genere non ha inizio, non ha fine, insomma c'è tutta una serie di complessissimi elementi, e in cui Mudra appunto è questo altro linguaggio che è formale come il linguaggio dello scopetto. Capite? Quindi le mani non si muovono, quell'immagine che vi ho fatto vedere si è un po' ecco. Questa immagine che vi ho fatto vedere la prima volta, vedete? Queste mani, queste dita, così come sono collocate, hanno tutta una storia complessissima all'interno della cultura balinese, così come l'espressione del viso naturalmente, che continuano a costituire una grande fonte di linguaggio. Quindi ancora una volta la domanda di Alex permette appunto di affermare sempre di più appunto, che i linguaggi della comunicazione sono in simultanea, sono tanti, per cui dobbiamo, per questo tipo è assurdo rinnovarli, perché lì va sviluppata un'attenzione profonda al linguaggio sonoro, anche musicale, e quello sonoro è diverso dal musicale, perché ha anche i rumori naturalmente, poi qui c'era anche il commento di Margherita Mille, per cui c'erano tanti livelli sonori che si intrecciavano, e poi tutti gli altri. Quindi apprendere questa molteplicità linguistica significa entrare nella metacomunicazione, ovviamente, altrimenti. Domande sulla dance? Nella dance? Ci sono? Tutto chiaro? Veramente? I fumi sono miscele di cose. I fumi di sensore della trance, perché una delle domande classiche che si fa in genere è se la trance è favorita da delle sostanze. E in questo caso non ci sono sostanze che danno la trance. Anzi, io posso dire che normalmente appunto in tante culture la trance, l'alterazione appunto non è data da assumere sostanze. È il contesto che ritualmente stabilito che favorisce questo viaggio della mente, diciamo, della mente corpo. Lì è tipo un incenso che cui c'è un profumo molto forte, ti dà un immediato ritorno, diciamo, alla realtà, quindi è il contrario di come si possa immaginare che cosa è un salone di cattiveria, tanto è vero che è andato alla fine, non è andato all'inizio. All'inizio nessuno assume fumi di nessun tipo. Però questo è molto importante. Questo a me sembra aver visto che uno di questi balinesi si era ferito con il coltello. Ma io veramente non ho fatto caso. Tu dici se poi adesso. Ma adesso è una cosa sì. Se volete possiamo rivedere senza volte, però. Qualcun altro l'ha visto? Vabbè, probabilmente non era andato quasi come prima adesso. Insomma, magari ci può essere stato qualcuno adesso io non ho mai fatto caso, l'ho visto di questa volta, ho una goccia di sangue, però anche se fosse una goccia di sangue, perché tu hai visto proprio ferito? Sì, stava anche Vedete, questa è l'immagine classica. Vedete? Vediamo se la faccio. Che il simbolo, i simboli, tutti i simboli balinesi, e in particolare il massimo singolo, che è quello cosmico, si fratturi e cada a pezzi. Allora il rituale ha il senso di annullare e di ristabilire l'ordine simbolico del cosmo. È tutto basato su una visione del mondo, su una visione cosmica. La trance non ha niente di naturale, ovviamente. È tutto basato su quella che è la visione del mondo. Per questo, se tu o io andiamo a Bali, non andiamo in trance, perché noi non apparteniamo a questa visione del mondo che ci sta profondamente dentro. Perché? Ma perché i processi di inculturazione, no, dalla nostra infanzia fino a quella dell'essere adulti, ci ha fatto penetrare e incorporare questo tipo di cosmo, che non è scritto nei libri sacri o via, cioè, è, diciamo, se il mito è raccontato, è musicato e danzato. Questo è. E la cosa bella, tra l'altro, che non abbiamo detto prima, è che a Bali appunto non esiste il concetto di arte. Questo ha sempre impressionato gli antropologi. E a Bali la vita è dedicata costantemente all'arte, a quella che noi intendiamo come arte, perché noi intendiamo arte, diciamo, un'attività separata dalla normalità, no? Io lavoro, poi c'è, se io ho un lavoro, l'artista. Lì tutti siamo nella Bali degli anni 30, adesso le cose sono cambiate, infatti, non sono le stesse, normalmente. Ma il fatto appunto che non ci sia il concetto di arte o il concetto di teatro, ancora di più rende questo significato che la vita quotidiana, il rituale quotidiano della vita, tenta costantemente di impedire questo collasso. E l'arte, e questa è una cosa su cui magari se voi potete riflettere a prescindere da Bali, sarà che nell'arte c'è, nell'opera d'arte c'è qualche cosa che ristabilisce una dimensione simbolica profonda, unitaria. Sarà che le opere d'arte, di arte, le diverse opere d'arte abbiano una capacità di sconfiggere, magari momentaneamente, una drammatica e disperata frattura tra noi e il cosmo? Qual è il senso dell'arte, insomma? Qual è il senso dell'arte? La via balinese è quella che noi chiamiamo arte, che loro probabilmente la chiamano rango della lotta, è questa continua lotta tra rango della lotta, tra rango che cerca di distruggere la dimensione simbolica e la lotta che viceversa si oppone. Ecco, questa continua dualistica dramma, questo è il dramma di Bali, è risolto in una forma performabile, rituale, che cerca di ristabilire l'unità, che si sa che però non verrà mai ristabilito una volta per tutte. Non è mai ristabilito una volta per tutte. Ma credo che anche su questo le riflessioni su parte nostra, se volete, è interessante. Cioè, nella maniera in cui noi, o ciascuno di noi magari, si relaziona a quella che è arte, sia nel campo musicale, nel campo della pittura, dell'architettura, qual è il senso della nostra compartecipazione a un'opera d'arte? E comparteciamo a un'opera d'arte noi? O siamo spettatori di un lavoro fatto altrove che ci scuoterà per sempre? Qual è la vostra atteggiamento sull'arte? Guardate bene che la questione della riflessione sull'arte rispetto alla comunicazione per me è una dimensione fondamentale. E per questo che la seconda parte io vi parlerò molto sull'arte contemporanea, però fin da adesso ripongo questa riflessività che deriva dalla specificità antropologica, che mette in tensione differenti modi in cui l'arte è vissuta per trovare una soluzione che deve essere di volta in volta il risultato di una ricerca che ciascuno di noi ma se lavorate sulla comunicazione, anche se volete essere il peggio giornalista del mondo, attenzione, sull'arte dovete posizionarvi. Questo è quello di Lorenzo. Poi quello che volete fare non lo so, ma se studiate comunicazione e se volete fare anche il peggio giornalista, o la giornalista del mondo, la riflessione sull'arte è fondamentale. Per questo vi dovete posizionare sulle forme dell'arte contemporanea e sulle forme dell'arte totalmente altre, come queste qui, che è l'antologia C e D offre. Avete visto Bali, vi mostrerò ovviamente la cultura Pomodoro. Ma scusate, l'ultima cosa che devo dire, prima magari se c'è un'altra domanda, è che questo a Bari, poi sarà Gerz che lo studierà, anche i tempi sono molti, non solo il rapporto tra corpo e maschera sviluppa una molteplicità dell'Italia, ma dice Gerz che l'ha studiato lui questo aspetto, se voi dite che giorno è oggi, sempre per noi che giorno è oggi lo diciamo in maniera abbastanza chiara. Per un balinese oggi una singola giornata non è solamente un giorno fisso ed un calendario fisso, ma sono tanti giorni che possono essere questo nostro giorno o quello di noi. Quindi anche il tempo è molteplice. Ora, il fatto che il tempo sia molteplice, è un altro aspetto molto significativo, secondo me, per apprendere il porto a Bari, no? Avere tempi simultaneamente oppure con consecutivamente differenti è una cosa su cui vi invito a riflettere, perché appunto nessuno può sostenere che il tempo sia lineare e irreversibile, no? Come c'è una domanda da giù? Non sento molto, gli uomini vanno in trans come divinità, ha detto? No, la parte del trans vengono visti come una sorta di divinità, dato che aiutano a stabilire l'ordine cosmico. Ti ringrazio anche per questa domanda. No, non sono viste come divinità. Il termine, a parte che il concetto di divinità, come il tuo altro ragazzo che ha parlato di divino, sempre, no? È presente prima. È un termine anche questo problematico. No, non sono visti in particolare. Io adesso poi non conosco esattamente come si articola la divisione tra chi va in trans e chi non va in trans, o se ci sono delle persone che non vanno mai in trans a Bari. Per esempio, io so che nel Candomblé, che è una regione afro-brasiliana, alcune persone non vanno mai in trans, però partecipano sempre al rituale del Candomblé e si mettono vicino, aiutano chi va in trans. Detto questo, a Bali io credo, ma penso che possa essere, diciamo, una risposta abbastanza giusta, corretta, che lì qualsiasi persona ha, in qualsiasi momento, diciamo così, assume il ruolo di quello che noi chiamiamo attore. E quindi in quel momento non è una divinità. Anche chi fa Rangda non è una divinità, anche chi fa Balone, ancora di più chi fa Balone, chi fa il drago, non è una divinità. Sono persone che stanno in una condizione alterata, perché stanno in una dimensione in cui non sono né vivi né morti. Sono in una situazione, diciamo così, liminale. E in questo senso possono rappresentare la crisi del cosmo balinese, perché stanno nella situazione finale, più che divina, non sono, non hanno una dimensione divina. Noi potremmo dire, così come ho tentato di rispondere prima, che molto probabilmente, io su questo sono abbastanza convinto, hanno un ruolo sacrale, ma il ruolo sacrale è di tutti, capito? Tutti hanno, sono posseduti dal sacro, e il sacro appartiene a quella che per noi è la vita quotidiana, che lì è vita quotidiana che è uguale a un rituale performatico. Volevo sapere se ci sono due. Ogni cosa avviene. Nel finale appunto del video, del film, Mario dice che ricomincia subito dopo. Continuamente. I rituali continuano costantemente, perché costantemente c'è questo rischio del collasso e costantemente il rituale del formaggio viene messo in scena. E così, così per tutti i tempi. Insomma, le cose sono un po' più complicate, cioè prima io vi voglio ricordare, forse non ve l'ho detto e forse non lo sapete, che i balinesi sono stati distrutti da una potenza coloniale che probabilmente non immaginate chi è. Chi è che ha distrutto all'inizio però del Novecento? Quale potenza coloniale tra le più feroci, diciamo, si ha? Chi ha distrutto veramente un'intera base di popolazione balinese, rischiando la distruzione totale dei bali? Chi può essere? Quale nazione? Europea, eh? No, non sono inglesi. Non sono i francesi. Eh? No, non sono i spagnoli. Non sono i portoghesi. Non sono italiani, i tedeschi no, gli inglesi no. Ha detto lei, gli olandesi. Gli olandesi, c'è stata una guerra terribile, a un certo punto, sapete che questa è stata una parte di una regione veramente drammatica, a un certo punto quello che era il leader armato solamente di Chris, questi cognati si sono diretti tutti gli uomini contro l'esercito olandese, alla massa di tutti gli olandesi, che a noi ci piace tanto l'anno, ma anche l'Olanda sta attraversando molto complicato, attenzione, ma gli olandesi non erano secondi a nessuno in questo campo. Quando si vedono questi rituali, a volte le persone hanno difficoltà a proiettare la propria esperienza, le persone più difficili. Solo che tra l'alterazione dei rave e l'alterazione della trance per cui io in genere non sono d'accordo a stabilire una relazione tra questi due fenomeni, per esempio un rave, anche perché, come sapete, sono molto frequentemente si usano delle sostanze per penetrare. Sulla questione invece è che su internet non c'è una interazione nel senso della pranza, non si va in pranza, si assume un'altra identità, quindi è un'altra cosa che riguarda un tema che magari affronteremo in un altro momento, che è una volontà identità, non c'è una relazione. C'è un'altra domanda? Scusa? L'utilizzo della trance provoca degli effetti nel corpo, quindi comunque è debilitante. Il corpo della persona che è stato in trance alla fine è stanchissimo. Perché avete visto le immagini? Probabilmente pochi ore dopo inizia un altro rituale in cui altre persone andranno in trance, certamente non quelle stesse persone, però che non c'è questa divisione appunto dei ruoli di attore e di non attore. La trance debilita profondamente prima in trance. Quando io ho detto che mi dispiace che la nostra studentessa argentina non è d'accordo, che la trance, certamente non l'ho detto io, dice Margaret Mead, che la trance a Bari è un mix di agonia e di orgasmo, è che il soggetto alla fine si sente proprio in questa condizione. Allora, per riprendersi necessita veramente di tempo, però insomma, è facile immaginare che già il giorno dopo è benissimo andare nuovamente per le cose, già il giorno dopo lo fare tranquillamente. Però la domanda tua, ti rispondo così logicamente, ma non ti so dire se ho ragione rispondendo così. I rituali sono continui, quotidiani e continui. Adesso è complicato. Tenete presente che penso nel mito della molestia ricerca nel 38-39. Nel 56-57 sarà Pierce che farà la ricerca, l'autore che dovremmo iniziare oggi, adesso vediamo. E già Pierce non è interessato a queste cose, è interessato ad altri aspetti della cultura palinese. E in particolare al famoso combattimento dei galli. Che significa il combattimento dei galli verbali? E qual è il rapporto simbolico di identificazione dei balinesi con il gallo? E perché è solo il maschio, una cultura così aperta in qualche modo, come vediamo noi, è il maschio che si identifica con il gallo. Cioè, è quello il problema fondamentale. Quindi, se vi posso dire, una cosa che a me fa tanto piacere è che due miei studenti, ma il primo e anche la seconda, due studenti sono andati a Bari nello stesso villaggio per fare la tesi d'aula, nello stesso villaggio dove è stato Gregory Bateson e Margaret Mead, e uno ha potuto incontrare e si è riconosciuto in una delle immagini dei bambini fotografati dalle regole e ha fatto la ricerca, in quel villaggio, e già in quel villaggio, che è molto separato dalla Bari turistica, le cose non erano profondamente cambiate, ma cambiate non vuol dire annullate, nel senso che anche dei processi di lavoro più, diciamo, si tipo chiamato incidentale, sono penetrate lì, però il rituale della danza e della musica è ancora parte costitutiva dell'esperienza palinese, almeno lì, voglio dire. Io purtroppo non ci sono mai stato, mi dispiace tanto, per questo vi do le mie, diciamo così, analisi, sono analisi delle letture che ho fatto, delle cose che ho visto da molto tempo, ma rispondo a molte domande come la tua, che hai fatto con il mio tipo di logica. Non sono sicuro che quello che dico su alcune cose, sulla tua domanda, sia la verità, perché non sono mai stato lì, mi farebbe tanto ricordarci, ovviamente, però un po' di abilità su questa cosa. Vorrei, non dovremmo, diceva la canzone. quindi cioè, sono almeno due di cui siamo in trance, ce ne sono anche altre. Cioè questa della trance è la trance ultima, diciamo così, dove costantemente il problema dell'alterazione è il modo in cui affrontare il heroic, no? Questa frattura cosica. E può essere anche contemporanea, ci può stare Lombardo, il dramma di Ragnar Lothbrok, ma oggi può stare, perché poi il bilancio è un bel enorme, poi ci sono tanti bilanci che sono vicini. Questo tra l'altro chi è napoletano dovrebbe aver riconosciuto facilmente. Allora, ci sono tante cose da dire. In molte culture c'è un rituale che si chiama covata o covata, non so se lo conoscete. La donna che sta per partorire va via dal villaggio, da sola, e chi sta soffrendo e partorendo è il marito. Il marito soffre, grida e partorisce. Poi arriva la moglie, che è andata un po' da sola e lontana, cioè porta il bambino. Per cui molte culture, specie cosiddette Native American, le popolazioni indigene americane, la Puad è un rituale, ma chi è di Napoli, nella Tamburiata, il fatto che un uomo partorisca una bambola, anche a Napoli c'è, non l'avete mai visto? Questo rituale? Chi è di Napoli? Nessuno c'è, non l'avete visto? Sì, c'è il rituale della Tamburiata che c'è, e qui c'è lui che vestito da donna, come il uomo vestito da donna, è questo che partorisce un bambino. Anche nel movimento delle nascite che simula l'atto sessuale della donna, ci sono varie simbologie sulla tamburra che da un lato rappresenta il sole, uomo, dall'altro la luna, donna, quindi ci sono tutte della fisica parentina. Quindi ci sono delle cose che sono veramente singolari, no? Perché in parte affini, in parte identiche, non sono mai identiche, insomma ci sono delle affinità su come si compongono certi rituali, per cui un rituale a Napoli, sulla Tamburiata, è l'inizio del rituale balinese, per cui lui fa questa bambina, che è una bambola, una marinetta, insomma, della ok, così. È uno degli aspetti in cui gli uomini soffrono il parto e invece la donna muore la bambina, poi diventa tutto diciamo l'inizio del dramma, per cui appunto rapida se la prende. Sapete, ci può essere il rituale senza gli spettatori, poi lo spettatore è fondamentale, questo è bello. Ci può essere un rituale senza spettatore. Il rituale, il concetto di spettatore lo deve mettere in crisi. Non c'è lo spettatore, nessuno guarda la storia, però tutti la conoscono la storia. Non è che la storia nuova, è la stessa che viene rappresentata costantemente, come se in Grecia, anche in Grecia non si rappresentava sempre la tragedia di Edipo, tutti sapevano la storia di Edipo, però era come era raccontata. Però diciamo questa è una cosa un po' differente, perché in Grecia c'erano gli spettatori. Cioè, da un momento storico in poi c'erano gli spettatori. Prima, nella questa lettura di Nietzsche, il coro, nella tragedia greca di Esquilo, erano i cittadini. Per cui tutti i cittadini erano il coro. E quindi non c'era lo spettatore nell'inizio della tragedia greca. A Bari sicuramente non c'è lo spettatore, non c'è nessuno, non c'è divisione dei ruoli su questo. E questo aspetto ha avuto un grande fascino in Artaud e in tutta un filone del teatro performatico contemporaneo che ha cercato di abolire questa, la platea e il palco, questa divisione nel due volte. Tutta la lezione, probabilmente adesso le cose ormai negli anni 60, di cui non ne voglio parlare, ma nel 68, insomma, di Lintier, veniva all'università, la nostra università, la Sapienza, e rappresentò un rituale dove si spogliavano tutti nudi davanti alla Nerva per rappresentare Antigone, perché Antigone è il grande dramma del rispetto a quale legge? A quella materna o a quella di sa quale? A quella dell'amore fraterno, no? Allora l'Antigone è sempre stata vista come una tragedia libertaria, e queste evidenze venivano, non solo si spogliavano, poi venivano spogliati tutti quanti, insomma, ed era un momento in cui, anziché scegliere il teatro, le pittiere lo facevano in questa piazza, quindi c'era tutta una tradizione in cui non si deve più essere gli spettatori, che è una cosa complicata, diciamo, nel teatro. Ma insomma, c'è questo filone adesso, probabilmente è un po' più difficile. Quanto riguarda il rituale del trans, le persone che ci andavano, comunque, avevano questo dono, nato o hanno imparato? Ah no, se è un dono innato, no, non è, nulla è innato in questo lato. Ma la domanda è complicata, perché io non ti posso rispondere tanto rispetto a Bari, ti posso rispondere a livello logico, posso rispondere più per la mia esperienza nel problema della trans, della possessione veramente in Brasile. Lì ci sono alcune persone, le cui motivazioni non sono mai del tutto chiare, che accettano di compiere una serie di rituali di iniziazione dopo i quali tu vai in trans di possessione, la trans di possessione si è posseduto da a Bali, quindi non c'è una predestinazione della trans, c'è una destinazione. C'è una destinazione, il concetto che hanno scelto loro probabilmente non dà, non è la logica giusta. Per esempio tra i coloro non c'è chi sceglie di andare in trans e quindi diventare poi il Reicene, sarebbe lo sciamano, cioè, che ha questo compito. È una persona che per una serie di motivi che non sono determinati tanto dalla sua volontà quanto da delle relazioni che si stabiliscono con gli anziani, ha delle visioni. Quindi è più, quando ho detto è destinato, è come se ci fosse un processo attraverso il quale si afferma i comportamenti di detenuti il fatto che va in trans. Quindi sicuramente non è a priori, non è da una cosa innata, è nata da scelte che sono difficilmente determinabili, perché dentro ci stanno, a Bali è più semplice, perché a Bali ormai tutti vanno in trans, più o meno tutti vanno in trans. Ma in altre culture non tutti vanno in trans, specialmente quando, quindi questo non ve l'ho detto, quando è la possessione, perché c'è una distinzione tra la trans in senso stretto e la trans da possessione. Se volete vi attivo a questo discorso, è tardissimo. In 2 minuti, non me ne accorgo, sono 5:05, scusate, dovrei sono quasi diversa. Allora, nella trans in senso stretto tu viaggi fuori, viaggi in dei territori inesplorati. Questa è la trans in senso stretto. La possessione, viceversa, tu sei posseduto da, c'è una entità, una divinità, chiamiamolo come volete chiamare, che entra dentro il tuo corpo e il termine che si usa in genere è lo cavalca. Il corpo è cavalcato, e assume i movimenti vicini a quelli di un cavallo. Quindi nella possessione la divinità entra dentro il tuo corpo, se ci credi ovviamente, ti penetra, ti trasforma. Nella trans in senso stretto se tu esci dal tuo corpo, vedete? Sono due diverse forme di alterazione, la trans in senso stretto e la possessione in senso stretto. Tutte e due sono alterazioni, una è più maschile, la prima trans è già più maschile. Questo viaggio fuori e lo sciamano che ha questo potere attraverso, andando nelle zone in cui si mescola tutto, Dio, animali, cose, natura, tutto è mescolato, lui va lì e lì riesce a trovare la soluzione ai problemi, come chi aveva detto, insomma, c'è un problema, manca l'acqua, c'è una persona che sta male, chi sta morendo, c'è un amore, eccetera, eccetera, lo sciamano ha questo potere di andare in questi territori sconosciuti a tutti tramite lui, dove tutto si mescola, dove la dimensione animale, divina, umana, vegetale è mescolata e torna e dà la soluzione. No? Invece la possessione è la divinità che ti entra dentro, quindi dipende quale divinità ti penetra e ti possiede. Da questa possessione che poi si trova differenze di quanto. Guarda, adesso io spero che non ci sia un'altra domanda, io pensavo erano le 4. Invece sono 5 e ci vediamo tanto su 10.